Cari fratelli e sorelle, quest'anno ricorre il 16° centenario della morte di San Giovanni Crisostomo. Giovanni di Antiochia, detto Crisostomo, cioè Bocca d'Oro, per la sua eloquenza, può dirsi vivo ancora oggi, anche a motivo delle sue opere. Un anonimo copista lasciò scritto che esse attraversano tutto l'orbe come fulmini guizzanti. I suoi scritti permettono anche a noi, come ai fedeli del suo tempo, che ripetutamente furono privati di lui a causa dei suoi esili, di vivere con i suoi libri, nonostante la sua assenza. E quanto egli stesso suggeriva dall'esilio in una sua lettera. Nato intorno al 349 ad Antiochia di Siria, oggi Antakya del sud della Turchia, si svolse il ministero presbiterale per circa 11 anni, fino al 397, quando nominato vescovo di Costantinopoli esercitò nella capitale dell'impero il ministero episcopale prima dei due esili, seguiti a breve distanza l'uno dall'altro fra il 403 e il 407. Ci limitiamo oggi a considerare gli anni antiocheni del Crisostomo. Orfano di padre in tenera età, visse con la madre Antusa, che trasfuse in lui una squisita sensibilità umana e una profonda fede cristiana. Frequentati gli studi inferiori e superiori, coronati dai corsi di filosofia e di retorica, ebbe come maestro Libanio, pagano, il più celebre retore del tempo. Alla sua scuola, Giovanni divenne il più grande oratore della tarda antichità greca. Battezzato nel 368, e formato alla vita ecclesiastica dal vescovo Melezio, fu da lui istituito lettore nel 371. Questo fatto segnò l'ingresso ufficiale del Crisostomo nel cursus ecclesiastico. Frequentò dal 367 al 372 l'Asceterio, una sorta di seminario di Antiochia, insieme con un gruppo di giovani, alcuni dei quali divennero poi vescovi, sotto la guida del famoso esegeto Diodoro di Tarso, che avviò Giovanni all'esegesi storico-letterale, caratteristica della tradizione antiochina. Si ritirò poi per 4 anni tra gli eremiti sul vicino Monte Silpio e proseguì quel ritiro per altri 2 anni, vissuti da solo in una grotta, sotto la guida di un anziano. In quel periodo si dedicò totalmente a meditare le leggi di Cristo, cioè i Vangeli, e specialmente le lettere di San Paolo. Ammalato si trovò nell'impossibilità di curarsi da solo e dovette perciò ritornare nella comunità cristiana di Antiochia. Il Signore, così spiega il biografo, intervenne con l'infermità al momento giusto per permettere a Giovanni di seguire la sua vera vocazione. In effetti, scriverà lui stesso che posto nell'alternativa di scegliere tra le traversie del governo della Chiesa e la tranquillità della vita monastica, avrebbe preferito 1000 volte il servizio pastorale. Proprio a questo il Crisostomo si sentiva chiamato. E qui si compie la svolta decisiva della sua storia vocazionale, pastore d'anime a tempo pieno. L'intimità con la parola di Dio, coltivata durante gli anni del romitaccio, aveva maturato in lui l'urgenza irresistibile di predicare il Vangelo, di donare ad altri quanto lui aveva ricevuto negli anni della meditazione. L'ideale missionario lo lanciò così, anima di fuoco nella cura pastorale. Fra il 378 e il 79 ritornò in città, diacono nel 381 e presbitero nel 386, divenne celebre predicatore nelle chiese della sua città. Tenne omelie contro gli ariani, seguite da quelle commemorative dei martiri antiocheni e da altre sulle festività liturgiche principali, un grande insegnamento della fede su Cristo e su Cristo nella luce dei suoi santi. Il 387 fu l'anno eroico di Giovanni, quello della cosiddetta rivolta delle statue. Il popolo abbatté le statue imperiali in segno di protesta contro l'aumento delle tasse. Si vede che alcune cose nella storia non cambiano. In quei giorni di quaresima, di angoscia a motivo delle incombenti punizioni da parte dell'imperatore, egli tenne le sue 22 vibranti omelie sulle statue in questa occasione. E queste omelie erano finalizzate alla penitenza e alla conversione. Seguì il periodo della serena cura pastorale. San Giovanni Crisostomo si colloca tra i padri più prolifici. Di lui ci sono giunti 17 trattati, più di 700 omelie autentiche, i commenti a Matteo e a Paolo e 241 lettere. Non fu un teologo speculativo, trasmise però la dottrina tradizionale e sicura della Chiesa in un'epoca di controversie teologiche suscitate soprattutto dall'arianesimo, cioè dalla negazione della divinità di Cristo. È pertanto un testimone attendibile dello sviluppo dogmatico raggiunto dalla Chiesa nel IV e V secolo. La sua è una teologia squisitamente pastorale, in cui è costante la preoccupazione della coerenza tra il pensiero espresso dalla parola e il vissuto esistenziale. È questo, in particolare, il filo conduttore delle splendide catechesi con le quali preparava i catecumeni a ricevere il battesimo. Prossimo alla morte scrisse che il valore dell'uomo sta nella conoscenza esatta della vera dottrina e nella rettitudine della vita. Le due cose vanno insieme, conoscenza della verità e rettitudine della vita. La conoscenza deve tradursi in vita. Ogni suo intervento mirò sempre a sviluppare nei fedeli l'esercizio dell'intelligenza, della vera ragione, per comprendere e tradurre in pratica le esigenze morali e spirituali della fede. Giovanni Crisostomo si preoccupa di accompagnare con i suoi scritti lo sviluppo integrale della persona nelle dimensioni fisica, intellettuale e religiosa. Le varie fasi della crescita sono da lui paragonate ad altrettanti mari di un immenso oceano. E dice, il primo di questi mari è l'infanzia. Infatti, continua, proprio in questa prima età si manifestano le inclinazioni al vizio e alla virtù. Perciò la legge di Dio deve essere fin dall'inizio impressa nell'anima come su una tavoletta di cera. Di fatto è questa l'età più importante, e dobbiamo tenere presente come importante che in questa prima fase della vita realmente entrano l'uomo proprio le grandi direttive che danno la linea giusta alla vita. Crisostomo perciò raccomanda, fin dalla più tenera età, premonite i bambini con armi spirituali e insegnate loro a segnare la fronte con la mano. Vengono poi l'adolescenza e la giovinezza, e dice, all'infanzia segue il mare dell'adolescenza, dove i venti soffiano violenti perché in noi cresce la concupiscenza. Giungono infine il fidanzamento e il matrimonio. Alla giovinezza, scrive, succede l'età della persona matura, nella quale sopraggiungono gli impegni di famiglia, è il tempo di cercare moglie. Del matrimonio egli ricorda i fini, arricchendoli con il richiamo alla virtù della temperanza di una ricca trama di rapporti personalizzati. Gli sposi ben preparati sparano così la via al divorzio. Tutto si svolge con gioia e si possono educare i figli alla virtù. Quando poi nasce il primo bambino, questi è come un ponte. I tre diventano una carne sola, poiché il figlio congiunge le due parti e i tre costituiscono una famiglia, piccola chiesa. La predicazione del Crisostomo si svolgeva abitualmente nel corso della liturgia, luogo in cui la comunità si costruisce con la parola e l'Eucaristia. Qui l'assemblea riunita esprime l'unica Chiesa. La stessa parola è rivolta in tutti i luoghi a tutti e la comunione eucaristica si rende segno efficace di unità. Il suo progetto pastorale era quindi inserito nella vita della Chiesa, in cui i fedeli laici col battesimo assumono l'ufficio sacerdotale, regale e profetico. Al fedele laico egli dice nella omelia 3: pure te il battesimo fa re, sacerdote e profeta. E scaturisce di qui il dovere fondamentale della missione, perché ciascuno in qualche misura è responsabile della salvezza degli altri. Questo, scrive, è il principio della nostra vita sociale, non interessarci solo per noi. Il tutto si svolge tra due poli, la grande chiesa e la piccola chiesa, la famiglia, in reciproco rapporto. Come potete vedere, cari fratelli e sorelle, questa lezione del Crisostomo sulla presenza autenticamente cristiana dei fedeli laici nella famiglia e nella società rimane ancora oggi più che mai attuale. E preghiamo il Signore perché ci renda docili agli insegnamenti di questo grande maestro della fede. Grazie.